Buonasera, buonasera. Chi vi parla è Claudia Mighty Mau in diretta dalle frequenze di Radio Kairos, www.radiokairos.it, 105.5 FM su Bologna. Eccoci arrivati al nostro appuntamento settimanale per parlare questo giro di Anna Calvi. Anna Calvi ha appena pubblicato un album per la Domino Records, importantissima etichetta. Indie generalmente, è stato pubblicato il 17 gennaio, mentre negli Stati Uniti uscirà solo il 1 marzo. E tra l'altro vi ricordo già da ora che, se vi piace questa cantante, suonerà al Locomotive il prossimo 9 aprile. Si possono prenotare i biglietti. Dicevo, Anna Calvi ha pubblicato un album omonimo il 17 gennaio per la Domino Records e noi, senza indugiare, come al solito, ci andiamo ad ascoltare non il primo pezzo, come spesso capita a Mighty FM, ma il secondo pezzo, che è la prima vera canzone dopo un intro strumentale di sola chitarra che a me ricorda molto il Ray Cooder di Paris, Texas. Allora adesso ci andiamo ad ascoltare No More Words. More Words, il primo pezzo che vi facciamo ascoltare dall'album omonimo di Anna Calvi, di cui stiamo parlando oggi. Ho letto molte cose su Anna Calvi, è un nome che ha cominciato a circolare in rete, mi ha molto incuriosito, alla fine ho detto devo ascoltarla anch'io e sono molto felice. Il paragone banale che spesso si fa riguardo a lei, non conoscendola da molto, essendo la prima prova d'esordio, è PJ Harvey, ed è per questo che noi vi facciamo ascoltare The Last Living Rose, tratto dal prossimo album in uscita, Let England Shake, di Polly Jean Harvey. Questo è il PJ Harvey con il suo pezzo The Last Living Rose, il primo che mi piace da dei 3-4 che sono si sono cominciati già a sentire dal disco Let England Shake, che esce il 15 febbraio. Ops. Questo è un paragone, diciamo, tra i più banali, perché c'è ben altro in Anna Calvi. Forse perché quando c'è una ragazza con la chitarra, insomma, di forte personalità, di una cantautrice così d'impatto, si pensa sempre a PJ Harvey. Questo perché purtroppo le donne nel rock e nella musica sono sempre state troppo poche. Ma le influenze di Anna Calvi, South Londoner, del sud di Londra, sono molto varie. Sono classiche, sono Nina Simone, sono Scott Walker, sono Maria Callas, sono Debussy, Ravel, ma anche Jimi Hendrix, Captain Beefheart e poi altre di cui parleremo successivamente. Ma appunto una delle canzoni che lei ha amato di più era un pezzo del 51 scritto da Frankie Lane, e che nello stesso 51 Edith Piaf, con testo di Jacques Aznavour, ha portato a successo Jezebel, la donna caduta, la donna peccaminosa, la donna che corrompe. E infatti tutta l'opera, tutto il disco di Anna Calvi veramente trasuda passione e sensualità. E quindi ci andiamo ad ascoltare un po' della versione originale di Edith Piaf di Jezebel. Que l'on doit voir sont des êtres vivants. Jezebel, appunto la donna caduta, la donna peccatrice, è il simbolo anche della promiscuità e della corruzione, e come anche nella versione inglese, il testo inglese si dice una donna nata a diavolo senza corna, ed è per questo che Anna Calvi, come primo singolo uscito l'11 ottobre scorso, ha fatto una versione di questo pezzo, Jezebel, e anche contenuta una delle attic sessions, ovvero delle sue esecuzioni live registrate nel solaio di casa dei suoi genitori, di cui dopo ascolteremo un'altra cover, e questo pezzo le piace così tanto che ha deciso di farne il suo esordio discografico, e noi siamo assolutamente d'accordo, in una versione assolutamente potente, Jezebel. Questa è la versione di Anna Calvi di un classico, Jezebel, portato a successo di Edith Piaf negli anni 50, che è stato appunto il primo esordio in singolo l'11 ottobre scorso. Però prima di allora, a parte la genesi del suo album, è durata 3 anni, e in questi 3 anni sono venute alla luce delle cose, come appunto le Attic Sessions di cui parlavo prima, che sono 5 esecuzioni live nel solaio di casa sua, a cui appunto corrispondono 5 video che sono su YouTube, che noi abbiamo postato sul nostro, come preparazione alla puntata, come sempre, sul nostro Facebook, Might FM Radio Kairos, insieme a cover di Bowie, di Elvis Presley, di Leonard Cohen strumentale, di Piaf. C'è anche una versione molto molto curiosa, più che altro perché è completamente stravolta rispetto all'originale, di Wolf Like Me dei TV on the Radio, che stiamo cominciando ad ascoltare in sottofondo, tratta da Return to Cookie Mountain del 2006, TV on the Radio, Wolf Like Me. Yeah. TV on the Red Wolf Like Me, uno dei pezzi coverati in una versione molto lenta, dilatata, da Anna Calvi nelle Attic Sessions, esattamente il numero 2 del 25 agosto del 2009. Ma noi stiamo parlando dell'album che finalmente ha pubblicato adesso il 17 gennaio, scusate, scorso, per la Domino Records, coprodotto, e ancora qui ritorna la Polly Jean, da Rob Ellis, storico collaboratore batterista di PJ Harvey e anche di Nick Cave e anche dei Marlene. Se per questo un album che è stato assolutamente accolto molto molto bene dalla stampa specializzata. New Musical Express gli dà un 9 su 10, Mojo 4 stelle, Uncut 4 stelle, Rough Trade album del mese, insomma un consenso unanime. C'è anche, ho letto anche delle recensioni italiane che dicono: beh, se questo fenomeno è stato creato a tavolino, hanno fatto un fottutissimo ottimo lavoro. Addirittura c'è chi propone anche delle equazioni per definire Anna Calvi, ovvero PJ Harvey per Nick Cave più Florence Welch di Florence and the Machine per la potenza vocale, diciamo, anche se per me Florence sinceramente urla un po' troppo, uguale Anna Calvi. E andando avanti con la nostra scaletta, passiamo ad un altro pezzo dell'album omonimo, ovvero Suzanne and I, un pezzo di grande potenza vocale, un pezzo più classico, roccheggiante, molto accattivante, mentre abbiamo sentito dagli altri pezzi che c'è una grandissima influenza del flamenco, di ritmi tipo begin, di suoni un po' retro, quei suoni anche cari a Lynch, a Badalamenti. Infatti appunto ascolteremo anche dei pezzi di quell'area lì, diciamo, di riferimento culturale. Ma appunto passiamo al prossimo pezzo di Anna Calvi, di questo album che veramente trasuda sensualità. Poi vi leggerò anche altre definizioni, altre recensioni che ho trovato, come si suol dire, molto ficcanti. Quindi Suzanne and I. Sun draws. Suzanne and I, un pezzo assolutamente trascinante, imponente, e dalla chat del sito www.radiocheros.it la mia cara amica Anna da Roma dice che questo per ora è il suo pezzo preferito e che non si prendeva una fissa musicale così da molto tempo, e ne approfitto per salutare, mea culpa, non l'avevo fatto l'altra volta. Elisa Coco, ti voglio tanto bene, ti saluto, facci compagnia e ascoltaci come ogni mercoledì, lo sai che ci fa molto molto molto piacere. E continuando a parlare delle influenze musicali, abbiamo nominato Nina Simone, la Callas, Morricone, anche Ravel, Debussy, Hendrix, Captain Beefheart e Scott Walker. E adesso in sottofondo ci ascoltiamo il pezzo preferito da Anna Calvi di Scott Walker, ovvero It's Raining Today, tratto da Scott 3 del 69, da cui nella scorsa puntata, ed è una coincidenza perché io nella scorsa puntata di The Hunter non sapevo ancora che avrei parlato di Anna Calvi e che Scott Walker era una delle influenze di Anna Calvi, e invece niente è a caso, si vede alla fine, è appunto lo stesso album da cui avevamo ascoltato 30 Century Man. E attingo direttamente dalle parole di Anna Calvi, che ha pubblicato su un sito la sua playlist dei suoi pezzi preferiti, dove troviamo Cocteau Twins, David Bowie, questo pezzo di Scott Walker, It's Raining Today, troviamo il compositore Messiaen, troviamo i Wild Beasts, Grinderman, David Bowie, Anthony and the Johnsons, Leonard Cohen, Morricone, e lei dice: io voglio venire commossa dalla musica, voglio sentire la passione, voglio sentire un cantante che dà qualsiasi cosa, dà ogni cosa, da tutta una canzone, ed essere così grezzo, crudo, onesto e aperto possibile, più possibile, come canta Anthony Hegarty, come fa lui quando canta. Come artista cerco di creare un mondo che può essere abitato dalle mie canzoni, voglio che la musica illustri la storia tanto quanto i testi. E questo è anche ciò che mi ispira del lavoro altrui. Scott Walker fa questo lavoro in modo molto bello in It's Raining Today, in cui gli archi creano un sottotesto alla storia. E poi continua appunto parlando di altri compositori come Morricone, Messiaen, Bernard Herrmann, che sono dei maestri che raccontano delle storie attraverso la musica, e anche Cocteau Twins riescono a creare un'atmosfera bellissima in un modo molto semplice attraverso la melodia. Quindi questo qui è proprio sono le influenze musicali di Anna Calvi, e diciamo che noi condividiamo questa sua grande passionalità che traspare assolutamente in tutte le sue composizioni. Chiaramente i pezzi sono scritti da lei, è anche una bravissima chitarrista cresciuta da un padre ossessionato quasi dalla musica, e adesso noi continuiamo ad ascoltarci un pezzo tratto dal suo esordio omonimo di cui stiamo parlando oggi a Mighty FM, ovvero First We Kiss, che è un inizio molto classico, appunto ritmo alla Begin, che ci ha fatto convincere anche a scegliere il pezzo successivo nella scaletta, che poi appunto scoprirete, quasi appunto un riferimento obbligato, mentre poi nel svolgere del pezzo, diciamo, si conclude con un'apertura musicale invece molto più attuale, un pezzo molto romantico, in un disco che è stato definito l'amore che strappa i capelli, da una recensione del blog italiano che citerò estesamente più in là. Continuiamo quindi, Anna Calvi, First We Kiss. Against the wardrobe, I hear the closing door. Beats against the window. Tell me how long, tell me how long. I feel it come from nowhere, taking over me. Feel it come from nowhere. Tell me. A perfect kiss. First We Kiss, che ci porta direttamente a Summer Kisses, Winter Tears di Julie Cruz, la famosissima colonna sonora di Until the End of the World del 91 di Wim Wenders. Una delle prime colonne sonore è stato grazie ai suoi film, che diciamo le superstar della musica diciamo pop rock indie alternative hanno cominciato a partecipare alle colonne sonore dei film, e a volte con cioè colonne sonore molto più belle ed interessanti dei film stessi. Quindi Julie Cruz, Summer Kisses, Winter Tears, che ci collega anche alle atmosfere di Badalamenti, di Lynch, di Twin Peaks, di Mulholland Drive, di insomma di tutto questo tipo di produzione in cui c'è sempre questo riferimento un po' noir, retro, al peccato, al morboso. Quindi niente, basta parlare. Summer Kisses, Winter Tears. Teniamo Julie Cruz sullo sfondo per parlare ancora di Anna Calvi, del disco di cui stiamo parlando adesso, un album che parla di amore, di perdita, di avere e non avere. Anna Calvi, una bellezza pallida, diciamolo, una bellissima ragazza, e un'anima inquieta che canta canzoni di amore, di perdita, di fantasmi, di ossessione, di cuori infranti, proprio una vera chanteuse appunto noir, come dicevo prima. Queste canzoni, per vedere la luce, ci hanno messo 3 anni, sono state registrate nel solaio della sua famiglia e poi in una cantina, insieme a Molly Harpatz, che ha suonato la chitarra, l'armonium e le percussioni, e Daniel Maidenwood, che praticamente è il loro trio, cioè loro sono loro che accompagnano Anna Calvi live, quindi un vero e proprio trio. Una dichiarazione di Anna Calvi riguardo al suo lavoro: la musica è così sessuale, e c'è quella cosa da tipo puntini puntini, tipo sai quando ami qualcuno così tanto che potresti ucciderlo? Ecco, ed è per questo che dopo questa dichiarazione ci andiamo a ascoltare un pezzo che non a caso si chiama The Devil, un pezzo che ha un finale che ricorda quel pathos rumoroso alla Nick Cave, ma che anche in questo intro di chitarra ricorda un po' Jeff Buckley e la sua interpretazione di Lalia Quine di Nina Simone. The Devil, Anna Calvi. Oh, Devil, veramente un pezzo di intensità pazzesca, che appunto dicevo mi ha ricordato un po' Nick Cave, e quindi non possiamo assolutamente non dire che Anna Calvi è andata in tour con Grinderman, ovvero la nuova creatura musicale di Nick Cave insieme agli altri tre ex Bad Seeds. Hanno fatto insieme il tour europeo nell'ottobre scorso insieme al macinino umano Grinderman, di cui adesso ci ascoltiamo, stiamo iniziando ad ascoltare Bell Ringer Blues, tratto da Grinderman 2, uscito nel 2010, e colgo l'occasione, appunto, visto che Nick Cave è una referenza importante per Anna Calvi, che l'altro nome che viene sempre citato nelle recensioni, negli articoli su Anna Calvi, è quello di Brian Eno, che ha detto letteralmente: Anna Calvi is the biggest thing since Patti Smith, cioè Anna Calvi è la cosa più grossa dei tempi di Patti Smith. È detto da Brian Eno, insomma, noi ascoltiamo, ne prendiamo atto e sicuramente ci pensiamo sopra. Quindi continuiamo ad ascoltare Bell Ringer Blues, è uno dei pezzi più tesi, più intensi per me di Grinderman 2, Nick Cave. Blues, Nick Cave, ovvero Grinderman, tratto Grinderman 2 del 2010, Grinderman che hanno avuto Anna Calvi come opening act nel loro tour europeo dell'ottobre scorso, appunto lo stesso mese in cui è uscito il primo singolo Jezebel, che abbiamo ascoltato in apertura di questa puntata di Mighty FM, Mighty FM Radio Kairos, Facebook, mightyfm.blogspot.com, blog e podcast ascoltabile, downloadabile. E questo mi porta a ricordare anche la chat del nostro sito, dove adesso c'è Anna da Roma, c'è la Coco, c'è Albe, e la Coco mi ricorda di dire una cosa importante, ovvero che venerdì sera presso il buco di via Zago 11, ovvero sotto il ponte di Stalingrado, ci sarà una festa che io rischiavo di dimenticarmelo, ovvero Mighty and Fragile. Mighty perché? Perché sono io, Mighty Mau, e faccio 40 anni, e insieme alle care amiche di Fragile Continuo, che io non manco mai di nominare, abbiamo pensato di fare questa festona. Ingresso offerta libera, suoneranno DJ Chiara Trippi, DJ Ale Nina Made in Woman, DJ Joe, Casual Green, Casual Friday, DJ Beat, ovvero Marzia Viola Urlo, Lady Beat, Dress Code, ora di ginnastica delle medie, mi raccomando, tutti in tuta, tutti in tuta, speriamo di divertirci e di vedervi tutti quanti. Mighty Mau fa 40 anni, Mighty FM ce n'è solo uno, speriamo di andare avanti ancora per 39 anni a fare questa bellissima trasmissione, chi lo sa, insieme alle amiche di Fragile Continuo, al Buco, sede dell'associazione Oltre, via Zago 11, sotto il ponte di Stalingrado, e poi la presenza speciale di un gruppo, diciamo una tribute band proveniente direttamente di corsa in tuta dalla Slovenia, ovvero le Toshtashki e Tetoshki, che faranno una performance molto molto speciale. Ma noi continuiamo ad ascoltare Anna Calvi dopo questa piccola parentesi pubblicitaria con un altro pezzo tratto dall'album di cui stiamo parlando, ovvero Love Won't Be Leaving, la cui chitarra ed atmosfera a me ricorda appunto il Badalamenti di Twin Peaks, in particolare quel pezzo molto molto diciamo sensuale ed erotico che accompagnava i balletti di Audrey, la ragazzaccia di Twin Peaks, ovvero il pezzo che si chiama appunto Audrey's Dance, ma invece è solo riferimento perché noi stiamo ascoltando Anna Calvi e questa è Love Won't Be Leaving. Sì, queste tre note a me ricordano molto Bela Lugosi's Dead, perdonate. Won't Be Leaving, mia moglie Olivia adesso mi comunica via Facebook che dopo 10 ascolti ha deciso che è il suo pezzo preferito, un pezzo torrido, sensuale, torbido, canzoni che trasudano passione ma anche solitudine, cuori spezzati ma anche molta molta molta carnalità, come ho detto prima, la dichiarazione di Anna Calvi, sai quando tu ami così tanto qualcuno che vorresti ucciderlo, una sensazione che conosciamo, altre cose che ho letto in giro. Questo disco è diviso come in due metà, soffuso di oscurità, anche in un altro, in un'altra recensione viene fatta riferita tipo anche a Jones Police Woman, io non condivido molto, ma comunque la citiamo comunque Jones Police Woman come donna forte, personalità forte, femminile della musica, e ossessionata appunto da un certo tipo di surrealismo linciano. E continuando con i collegamenti che autisticamente facciamo qui a Might FM, parlando di Nick Cave, parlando di PJ Harvey, grazie anche al suggerimento di Olivia, facciamo ascoltare adesso Marianne Faithfull, un pezzo tratto proprio dall'album che è stato composto a quattro mani, beh, anche da Marianne Faithfull stessa, da Nick Cave e PJ Harvey, appunto pubblicato nel gennaio del 2005, dal titolo Before the Poison. Ci andiamo ad ascoltare Crazy Love della signora Marianne Faithfull. Without a care, knowing too much, but having come so far, pretending life is just a game you play for nothing, loving no one and nowhere. Crazy love is all around me. Love goes crazy given time, but I know find me. Love is crazy, love is blind. Surprise, maybe an encounter that will change her life. Not knowing hot from cold or good from bad, if life is just a joke or if it makes us sad. Crazy love is all around me. Love is crazy, love is kind, but I know somehow you'll find. Love is crazy, love is blind. Crazy love is all around me. Love goes crazy given time, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind. Crazy Love, tratto da Before the Poison del 2005, Marianne Faithfull, un pezzo scritto, uno dei pezzi scritti da Nick Cave, mentre diversi altri dell'album sono stati scritti da PJ Harvey insieme o a Marianne Faithfull oppure da sola, una citazione direi obbligata, quasi naturale per parlare di Anna Calvi. Questo primo album veramente maturo per una 25enne, un album che lei definisce proprio il culmine della mia vita finora, un album appunto di passione, intimità, solitudine, c'è anche una certa oscurità, però anche un senso di speranza, anche forse dovuto dal fatto che passò i primi 3 anni della sua vita in ospedale. Un album che parla di sensualità, di lust, quasi di lussuria, di amore, di diavoli, come dicevo, un forte riferimento a quel surrealismo linciano drammatico. Ma adesso invece ascoltiamo Blackout, che diciamo che è il pezzo un po' più di più pop, proprio il super canticchiabile del disco, che mi ricorda tantissimo qualcosa, vi chiedo di aiutarmi, proprio un classico del passato, e anche un po' forse qualcosa di Morris, e all'inizio del verso un qualcosa tipo anni 60, proprio un classicone. Blackout, Anna Calvi. Forse il pezzo più pop di questo album omonimo di Anna Calvi, di cui abbiamo parlato oggi a Mighty FM. Un pezzo veramente trascinante, veramente orecchiabile, mi piace molto. Ma come dicevo prima, Jones Police Woman abbiamo anche nominato, c'è chi l'ha nominata come riferimento per la cupezza, il lato cupo di questo disco. Io direi forse di no, ma forse anche solo appunto per una donna che canta, che suona, che compone le sue canzoni, che si impone per la sua forte personalità. Jones Police Woman era una dei nostri beniamini, diciamo un po' più soul, che diciamo questa versione di gothic blues bianco e scarno alla Nick Cave, alla Anna Calvi, si può dire adesso. Infatti adesso inizia in sottofondo Christobel, il pezzo più chitarroso, più mosso del mio disco preferito, ovvero Real Life del 2009. Il 25 gennaio scorso è appena uscito fresco il nuovo album The Deep Field, da cui già circolava da tempo un singolo e un video molto carino dal titolo The Magic. Ma noi abbiamo parlato in questa puntata di Mighty FM, Mighty FM Radio Kairos, Facebook, mightyfm.blogspot.com, il blog, il podcast, di Anna Calvi, di questo esordio veramente veramente importante, con referenze importanti, raccomandazioni importanti, ma anche con molta sostanza. Non è solo fuffa, non è solo hype. 25 anni, una virtuosa anche della chitarra, un disco molto intenso. E alla fine vorrei citare questo blog che ho trovato, che è Notizie sullo stato della musica nell'età della pietra, con un gruppo di ragazzotti romani, maschi e femmine, molte femmine, grazie al cielo, e c'è questa recensione, Anna Calvi, L'amore che strappa i capelli, e leggiamo pari pari. La sua è una voce accattivante che sussurra, urla e piange, alta, bassa che sia, è sempre eccezionale e potente. L'atmosfera che si crea è da set cinematografico, sembra di vedere una stanza dalla tappezzeria barocca. Nella penombra si distinguono abiti di seta che cadono morbidi su fianchi minuti, labbra rosso fuoco e fumo di sigaretta. Storie di un amore passionale, misterioso e oscuro, prendono forma, si avverte un continuo senso di pericolo imminente, canzone dopo canzone, come un'inconscia paura di non poter controllare le pulsioni più forti di un amore che è anche morte. La tensione sessuale serpeggia in tutto l'album, esplodendo in picchi di gloriosa drammaticità come No Words, che arriva come un pugno dopo l'imponente introduzione di Rider to the Sea, e poi di seguito altre descrizioni e riferimenti degli altri pezzi, per poi finire così. Un album che lascia spiazzati, tanta è la sua intensità, ancor più se pensiamo che il disco d'esordio di Anna è che ha solo 25 anni. È vero che a tratti forse imita troppo l'insuperabile PJ Harvey, e io, Mighty Mau, non sono d'accordo, ma sempre in modo originale. E poi, se questo è il risultato, vorrei che tante altre giovani cantanti lo facessero, consigliato a chi vorrebbe sapere com'è un amore che strappa i capelli. Io me lo immagino proprio come Anna. Questo afferma della signorina Z, tratto dal blog Notizie sullo stato della musica nell'età della pietra, e noi lo condividiamo al 99%. È arrivato il momento di salutarci, e lo facciamo con un altro dei pezzi più potenti, più accattivanti, molto Arcade Fire, secondo me molto trascinante, molto trionfante, ed è Desire. Guarda caso, non poteva mancare una canzone in questo disco dal titolo Desiderio. Un po' Springsteen, Born in the USA, bestemmia. Oh, e questa è Desire, con cui vi salutiamo. Ci sentiamo la prossima settimana con Mighty FM. Vi ricordo venerdì Mighty and Fragile, tutti in tuta, festa per i miei 40 anni, per Fragile Continuo, l'art shop di Vicolo dei Facchini che noi amiamo, che è la nostra seconda casa, venerdì 4 febbraio 2011 presso Il Buco sotto il ponte di Stalingrado. E vi saluto, Claudia Mighty Mau, e ci sentiamo.